Sound check, il suono della musica di Gigi Telesforo. Ci siamo operativi, pronti per il tacchino. No, non ancora, eccoci qui, buonasera a tutti voi da Gigi Telesforo. Buonasera Riccardo Bomarzi. Buonasera Riccardo, buonasera Francesco Tromba. Ciao a tutti. Posso fare gli auguri? Ancora no, è presto. No, è presto. Tanto siamo in onda pure domani, quindi li possiamo È vero, fare quindi domani posso fare gli auguri di Natale. No, di vigilia di Natale. Di vigilia, come sì. Preciso, è forte questo calabrese, è proprio attento a tutto. Va bene, allora non farò gli auguri di Natale, li faremo domani, gli auguri Bravo. Per la vigilia okay. di Natale. Allora, quello che però potremmo fare oggi è dare dei consigli. Sì, se ancora non avete magari provveduto ai regali dell'ultimo momento. Lo sai perché lancio questa iniziativa? Perché? Perché io non ho fatto ancora un regalo di Natale. Come no? Io li ho fatti quasi tutti, forse me ne manca qualcuno dell'ultimo momento. Niente, io vorrei avere un personal shopper in questo caso. Io in parte ho sfruttato anche il Black Friday perché c'erano delle belle offerte. Black Friday è stato settimane fa. Sì, però in quel momento comunque riesci a trovare delle offerte molto vantaggiose, quindi magari se devi comprare delle cose di elettronica. Tromba, scusami, tu hai approfittato settimane fa del Black Friday per fare i regali di Natale. Sì, tanto alla fine con un computer riesci a levarti un paio di regali. In due secondi fai tutto. Bomarzi, che ci io vuole? Non so più che cosa pensare di questo ragazzo. Un ragazzo o un automa? Non lo so. Tanto alla fine sto sempre davanti al computer tutto il giorno, quindi a sto punto ritagliamoci mezz'ora. Voglio sapere che cosa hai acquistato, perché anch'io mi devo in qualche modo fare una cultura in merito e devo andare. Quando ci vado? Domani mattina? Domani sono aperti i negozi, sì, no? Sì, però troverai il delirio puro. Bisogna vedere pure cosa riesci a trovare. Anche alla perché fine, se faccio gli ordini adesso via compio anche pur avendo, come si chiama, il Prime. Amazon Prime non ce la fanno a portarmeli perché saranno tutti impegnati, no? Tutti i corrieri impegnati a fare le consegne. Beh, domani ci sarà il delirio sulle strade, quindi. Vabbè, allora farò un classico del mio repertorio, mi infilo in un negozio di dischi e quello sicuramente vuoto. No, vuoto no. Vabbè, Natale qualcuno, dai, qualcosa si regala. Trovo sempre qualche veterano, no? qualche anziano come me che va a comprare i dischi. Ma ultimamente ho trovato anche tanti ragazzi, dipende dal negozio di dischi che frequenti. Dipende anche dai prezzi che fanno nei negozi esatto, di dischi. Sì. Comunque farò così, andrò in un bel negozio di dischi a Roma e farò gli acquisti per tutta la famiglia, i parenti e anche a te Bomarzi regalerò qualcosa. Va bene? Ok, allora andiamo alla musica perché noi siamo specializzati in questo settore. Oggi, caro Francesco, direi di fare una sorta di compilation con il The Best del soundcheck proposto dall'inizio della stagione. Bello. Allora facciamo così, mettiamo le cose più convincenti, forse non proprio le cose più belle, ma quelle che in qualche modo possono essere anche adatte al periodo. Facciamo una puntata allegra. Sì, ecco. Ok, così magari appunto mentre siete in giro a cercare regali e ci ascoltate siete... Va bene, hai tirato giù godete. La tua lista di regali? Sì, un po' di cose. Voglio sapere che cosa regalare, insomma, che cosa fai. Tu, Bomarzi, hai fatto i regali? No. Niente, ecco, è peggio di me questo qua. Vabbè, tu andrai in un... un alimentari a fare regali. No, io sono il compratore dell'ultimo secondo. All'ultimo secondo, va bene. Allora andiamo insieme domani a fare shopping. Ok, Lala Hathaway, ladies and gentlemen, Honestly, al soundcheck di Radio 24. Si intitola Honestly, il nuovo album di Lala Hathaway. Convincente? Forse no, però ci sono dei brani che assolutamente non si possono non proporre qui al soundcheck di Radio 24 in questa puntata che anticipa la vigilia di Natale con una sorta di The Best, ovvero il meglio che abbiamo proposto dall'inizio della stagione, quindi dai primi di settembre a oggi. Certo, forse non mettiamo proprio le cose più belle secondo il nostro gusto, ma quelle più interessanti per il periodo. Sì, quelle che funzionano meglio in radio. Ecco, perché c'è la cosa che un brano deve essere radiofonico. Sì, non si capisce bene per quale motivo alcuni intanto radi... per la durata. Questo quello si sì, sa, quello no? Sicuro. No, soprattutto nel jazz, ci sono dei brani che sono improponibili, oppure puoi metterne una parte in onda, poi il Bomarzi è costretto a segarli quando arriva la pubblicità. Sì, vabbè, poi se un brano inizia con un'introduzione di contrabbasso di un minuto e mezzo magari... c'è questa cosa dei brani che iniziano con il contrabbasso, quello viene tagliato sempre. Perché un minuto e mezzo in radio mi dispiace dirlo per i contrabbassisti. Non si sente neanche bene. Sì, no, è che non si sente bene. Come mai Bomarzi, da un punto di vista tecnico, il contrabbasso ha questi problemi in radio? In radio purtroppo se non è super spinto il suono si perde. Ecco, scusami, possiamo spiegare agli amici in ascolto che cosa succede con l'emissione radiofonica? Perché il suono della musica cambia nell'ascolto proprio in radio, in macchina? Qual è il problema? Il problema è la trasmissione. Per far arrivare il suono a tutte, alle macchine, alle auto, a tutti insomma i device, bisogna fare una compressione, e per fare quella compressione il suono in qualche modo viene rovinato. Bisogna... Che significa fare una compressione, Bomarzi? E tu devi spiegare bene. Selezionare i dati del suono che sono più interessanti per la macchina che riceve il segnale. Non ho capito niente. Allora, c'è una macchina praticamente che è un compressore, giusto? Qual è il nome del compressore? Si chiama Orban. Orban, è il compressore tipico nell'emissione radiofonica. In realtà ce ne sono 4-5 in cascata per ogni emittente. Anche 50, va bene, non è quello il problema. C'è questo compressore che si chiama Orban, attraverso il quale passa tutto il segnale dell'emissione radiofonica, le voci, la musica, i jingle, la pubblicità e tutto il resto. Questo compressore fa in modo che il segnale praticamente annulla la dinamica, forte, piano, mette tutto in faccia, giusto? Esatto, ecco, esattamente quello. Questo però nei confronti della musica è penalizzante, perché cambia un po' il suono. Ecco perché alcune frequenze, come quelle del basso, che a casa ci fanno impazzire perché ci prendono nello stomaco, ci fanno muovere, ci fanno ballare, attraverso l'emissione radiofonica in FM vengono penalizzate. Quindi se volete ascoltare per esempio il sound check con il massimo della qualità, oggi avete a disposizione lo streaming o il DAB. La app, ecco, scaricatevi la app. La Radio 24 va anche in DAB. Va in DAB e quindi il suono... la qualità là già è un po' migliore. Va bene, abbiamo chiarito anche questo aspetto. Possiamo andare alla musica? Andiamo a... che cos'è? Periodo di Natale? Chi ha detto che è periodo di Natale? È periodo di Natale. Dicembre. Allora andiamo col gospel. Dai, lei è fortissima. Tasha Page Locker, The Beautiful Project, When I Think. Soundcheck di Gegè Telesforo. E anche questo può essere un bel regalino, l'album nuovo di Music Soul Child, anche perché avrei notato che ci sono quasi una ventina di tracce in questa produzione di Music Soul Child, quasi un'opera infinita. Sì, poi ha preso, se non sbaglio, anche la nomination per i Grammy Award. Ha preso la nomination ai Grammy Award ed è per questo che vi proponiamo il sound di questo campione del contemporary R&B selezionato fra i The Best di questa vigilia del soundcheck della vigilia di Natale. Sì, vigilia della vigilia. Vigilia della vigilia. Allora, abbiamo già detto che ho dei problemi con i regali, non ho fatto un regalo, vediamo tu invece che cosa hai ordinato. Allora, io parto da mia nonna, che è diciamo un personaggio abbastanza particolare, nel senso che è come se fosse una americana mancata, perché a lei piacciono tutte le cose... grosse, diciamo un po' kitsch. Una Cadillac le hai regalato? No. Allora, ho trovato in offerta questo dispenser di Kleenex con la forma della maschera di Tutankhamon, quindi abbastanza kitsch per lei. Quindi ho preso sia questo, sia poi domenica scorsa sono andato a Trastevere, al mercato a Porta Portese, e ho comprato una serie di Stereo 8, perché lei c'ha un Beltron ed è una grandissima fan di Enrique Iglesias. Beltron era lo Stereo 8 per eccellenza. Esatto. E lei è una casa. Sì, sì. Perché di solito lo Stereo 8 si metteva in macchina. Ah, quindi sì, da casa. Lei c'è quello da casa. Ah, e hai trovato proprio funzionanti col nastro? Sì. Non, non si sono smagnetizzati. Ovviamente, diciamo, la qualità non è fenomenale, però così lei si ricorda, diciamo, di quando ascoltava ai tempi tutte le cassette di Enrique Iglesias. È una bella cosa, fare dei regalini vintage, solo che bisogna girare. Chi ha il tempo? Bisogna andare nei mercatini. Vabbè, alla fine io comunque la domenica anche comprare vinile è un bel regalino per gli appassionati di musica. Un gran bel regalo. Certo, la prima cosa è verificare che abbiano il supporto. Sì, mia nonna ce l'ha il supporto, quindi Va bene, va bene. Allora, questo è un regalino. Bomarzi, tu non hai fatto regali, è inutile che io ti chieda nulla. Esatto, però posso dire una cosa: che secondo me ha sbagliato il tromba a dire regali due giorni prima di Natale. Ha bruciato ai suoi parenti tutte le sorprese. Ah, la sorpresa è vero. Mia nonna non è detto che ascolti. È vero, non dovresti dire a chi hai assegnato il regalo. Vabbè, a tua nonna non ascolti il soundcheck? Non sempre, nel senso, a parte ora starà cucinando tipo per l'esercito. Con due giorni, un giorno di anticipo. Sì, deve fare le crespelle, fa un sacco di cose. Chi fa fritti a casa? A casa tua si fanno i fritti? Non tantissimo, diciamo. Da te? Diciamo un bel po'. A casa tua un bel po', si frigge qualsiasi cosa. Va bene, niente, io non ho fatto niente, non so che cosa, veramente come comportarmi. Sono arrivato lungo a questo Natale. Music Soul Child, Love Me Back, andiamo con Hemp Fiddler. Sì. Anche questo mi sono molto divertito ad ascoltarlo. Sì. Hemp Fiddler, divertentissimo, Keep Coming. Soundcheck, il suono della musica, di Gegé Telesforo. Amber Navran al soundcheck di Radio 24, la leader, la vocalist dei Moonchild, nuovo EP, tutto suo, brano intitolato Last I Love, anche questa è una produzione interessante che vi abbiamo presentato in questa prima fase di stagione del nostro soundcheck qui su Radio 24. E oggi una puntata proprio, come dire, da previgilia della vigilia di Natale, poi invece domani faremo proprio una puntata natalizia vera e propria. Ho già in mente il concept per la puntata di domani, molto curioso, e te lo dico domani. Facciamo gospel? No, non facciamo gospel, l'abbiamo già fatto, ormai siamo alla quinta stagione del soundcheck. Il gospel l'abbiamo fatto mille volte, abbiamo fatto anche tutte le canzoni di Natale l'anno scorso con mio padre, ti ricordi? Le canzoni di Natale in jazz, in jazz, e domani tocca che un'altra idea. Vabbè, però il soundcheck della domenica dura anche meno, quindi sarà un po' meno sorpresa complesso. Domani, sorpresa, sorpresona. Dai. Va bene, allora ora da Amber Navran direi di andare anche ad ascoltare Emily Sandé, il brano con Wretch intitolato Kingdom Coming. Solo che in mente mi è venuto il più bel regalo di Natale che io mi sono fatto nella mia vita e nella mia carriera. E che cos'è? Avevo praticamente tipo 14-15 anni e già strimpellavo la batteria a casa di papà e mamma e decisi di farmi il più bel regalo della mia vita. Allora misi insieme tutte quelle monetine d'oro, catenine d'oro che ti vengono regalate quando fai la prima comunione, che tenevo messe da una parte in un cassetto, non so che cosa ne avrei potuto fare da grande. Fatto sta che mi servirono allora, perché ebbi la brillantissima idea di raccogliere tutti questi pezzi d'oro. C'era l'usanza una volta, anche a te. Sì, anche a te hanno regolato qualcosa, catenine, braccialetti, sì, no? Ovviamente, per la comunione, per il battesimo. Si regalavano le sterline d'oro quando ero bambino. Presi tutti questi pezzi d'oro, queste poche cose, e andai da un gioielliere, di nascosto dai miei. A 14 anni mi andai a vendere tutto. Misi insieme alcune centinaia di migliaia di lire e andai a Lucera con degli amici, un paese vicino a Foggia, dove c'era un negozio di musica dove in vetrina brillava una batteria Gretsch. Bellissima. Una Gretsch, vi sto parlando, quindi che avevo del 73, 74. 1974. Un'era fa. Un'era fa, batteria bellissima, e comprai la prima Gretsch della mia vita. Mazza, costa così poco. Vabbè, è vero che i tempi in realtà 100.000 lire erano... Sto parlando di 600-700 mila lire. Una Grecia messa lì in vetrina da anni che ammuffiva, nessuno la comprava. Io ci passavo sempre avanti a questo negozio e niente, decisi che oramai doveva diventare mia. Beh, un regalo meraviglioso. Regalone, il più bel regalo della mia vita e della mia carriera. Soundcheck, il suono della musica. Seconda parte del soundcheck di Radio 24, qui dal Groove Master Studio, dove stiamo cercando regali da fare proprio all'ultimo momento. Siamo arrivati lunghi, lo abbiamo detto, non ho avuto il tempo proprio di dedicarmi a questo, a questa attività tipica del periodo di Natale. Il tromba invece previdente lo ha fatto alcune settimane fa, approfittando del Black Friday, quindi comodamente seduto a casa hai fatto acquisti via internet. Sì, è una delle cose più belle che sono riuscito a trovare, che era anche in offerta. Sono delle cuffie della House of Marley, che sarebbe proprio, diciamo, la casa di produzione dei figli di Bob Marley, che hanno creato questa linea di cuffie auricolari. Sì, che hanno proprio i colori tipici della Giamaica. Sì, e sono tutte, diciamo, con materiale riciclato. Canapa. No, non canapa. No, non in canapa, perché poi alla fine quando non funziona, alla fine la puoi sbriciolare e te la fumi la cuffietta di Bob Marley. Però sono di una discreta qualità, comode, belle, anche l'estetica, tanto legno. Io ho notato che fra i ragazzi adesso quest'anno si vende molto la canapa legale, no? Sì, viene un CBD, CBD, non il THC. No, senza il THC, CBD. Si fanno i regalini, stanno andando fortissimo quei negozi. No? Sì, sì. Degli amici mi hanno detto che frequentano questi posti da ex fumatori, adesso hanno ritrovato il piacere perché possono fumare tranquillamente canapa legale. Senza avere le controindicazioni dello sballo, il THC, eccetera, eccetera. Sì, alla fine viene usata anche a livello terapeutico. Terapeutico, sì. Certo. E mi hanno detto che questi posti non sono tanto frequentati dai giovanissimi, ma da quelli che stanno, dagli ex fumatori fra i 50 e i 60 anni. Alla fine è un modo per fumare, diciamo, in maniera... magari non fumare le sigarette, che fanno più male, sono piene di prodotti chimici. Dopo cena, anche nel periodo di feste, può essere divertente, no? Sì, assolutamente. Poi se ci metti la musica giusta... E poi è legale, no? Ah, assolutamente stiamo legale, parlando di qualcosa di legale, no? Sì. Finché non li chiuderanno, prima o poi, no? No, legalissimo. Legalissimo, tutto legalissimo. Anche quello è un bel regalino, potrebbe essere, anche perché ci sono vari prodotti, quindi non soltanto la canapa legale che può essere fumata, ma poi fanno anche altri prodotti, biscottini, cioccolatini, c'è l'olio. Anche i tessuti. C'è l'olio, no, che puoi utilizzare sublinguale oppure, insomma, un prodotto alimentare. Sì, fanno anche le borse, le camicie, che sono molto comode, anche di un tessuto che non fa assolutamente sudare. Non fa sudare, idrorepellente, antisismico. e alla fine c'è sempre quella cosa meravigliosa: quando è sgualcita e completamente è arrivata all'ultimo lavaggio, la sbricioli e te la fai. Va bene, D'Angelo con Brown Sugar al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di JJ Telesco. Questi Dashiell al soundcheck di Radio 24 dall'album Time All Mine, brano intitolato Save Me, presente in questa compilation con il The Best della stagione del soundcheck di Radio 24. Domani invece, vigilia di Natale, una puntata dedicata proprio al sound tipico del periodo. Ci arrivano molti messaggi di amici che ci consigliano regali per il Natale, visto che io non ho avuto il tempo di farli. Domani mi andrò a sfogare in qualche modo, anche perché non farò in tempo a fare l'ordine via internet, arriverebbero sicuramente dopo le feste, pur avendo, come diceva il tromba, Amazon Prime. Sì, perché comunque ormai non c'è tempo, diciamo. Non c'è verità. Tempo, non tardi, c'è tempo di fare i regali, non c'è tempo neanche di riceverli, quindi tocca soltanto uscire domani, andare in un bel negozio di dischi e fare gli acquisti. Fra libri e dischi me la posso anche cavare. Vanno comunque sempre fortissimo, fra i regali di Natale, i guanti, le sciarpe e i pigiami. Beh sì, io infatti non penso di non aver mai comprato una sciarpa. Ah, neanche io una sciarpa. Puoi sapere una cosa? Nell'ultimo compleanno, a ottobre scorso, ho avuto... mi hanno fatto 4-5 regali, ho avuto tutte sciarpe, una collezione di sciarpe, ogni anno ricevo 4-5-6 sciarpe, quindi ho una cosa infinita, non so quante ne devo indossare per utilizzarle tutte. Quindi se mi regali una sciarpa, sì, so che l'hai riciclata. Ma no, per questa cosa, perché tu lavori con la voce, la cosa è tu lavori con la voce, fai il cantante, lavori in radio, ti devi proteggere, le tue sciarpe di tutti i colori, di tutti i tipi. Quindi, per favore, Tromba, non mi regalare sciarpe. No, ecco. No, non te le regalo, tranquillo. Andiamo avanti, vediamo un altro regalo che hai proposto, vai. Beh, un orologio da muro a forma di giradischi. Non è male. Non è male, carino. Sì, se è fatto bene è bellino. Mm. Un'altra cosa sono anche i gemelli per la camicia a forma di batteria. A forma di batteria, però di strumento, batteria. E questo è carino, questo chissà se l'ha alla fine, durante l'avrà regalato a me questo? Non durante si sa. I matrimoni si sa lo sfoggi bene. Ah sì, con la batteria sul polsino. Sì. Va bene, allora, altri regali di Natale, andiamo a Chantecan. Lei mi fa impazzire, fantastica. Corpulenta ma simpatica, sempre con il sorriso, e sta andando fortissimo anche con l'attività concertistica negli Stati Uniti. Attenzione, lo dico ai direttori artistici, lo sapete che esiste Chantecan? Quando la chiamate a fare i concerti nel nostro paese, ve lo dobbiamo sempre dire noi. Chantecan al soundcheck con You Gotta Love You. Soundcheck, il suono della musica. Il suono australiano dei 3070 si rifanno certamente a Napalm con Hiatus Keyote, ma loro sono 3070. Come si chiama la cantante? Alicia Joy. Alicia Joy, l'hai contattata? Sì, sì, ci ho parlato via Facebook. Ah, ci hai parlato proprio? Che ha detto? È onorata che abbiamo passato i loro brani in radio e sarebbe contenta di venire a suonare in Italia. In realtà è già venuta in Italia, mi ha raccontato la scorsa estate, è stata in Puglia per 3 concerti, però in solo, come solista, non con la band. Beh, questa è una band interessante. Noi segnaliamo anche i 3070 e i direttori artistici delle varie manifestazioni e vari festival nel nostro paese. Ogni tanto qualcuno ci ascolta, altri invece se ne fregano completamente, e infatti i loro festival sono noiosissimi. Alla fine ci vuole un po' di novità. Ma in ci vogliono paese, le novità, ma c'è tanta bella che musica poi, in comunque giro. In realtà quando porti le novità alla fine i ragazzi rispondono, perché ho notato questa cosa, che quando pensi a degli artisti che magari appunto non hanno tanto sbigliettamento, c'hai qualche dubbio, poi fai il concerto e finisce sold out. Ci sono le sorprese. Sì, sì. Va bene, quindi ecco, questa è un'altra cosa che possiamo regalare biglietti per i concerti. Quello è un regalo graditissimo. Per esempio si può andare, che ne so, potresti regalarmi la 3 giorni del North Sea Jazz, no? A te? Perché ci andiamo insieme. Andiamo. Cioè, me lo regalo pure io, quello è un bel regalo che mi voglio fare, andare al North Sea Jazz Festival, certamente. Alla fine, festival dai. Più belli del mondo, là si vedono veramente tutte le cose che suoniamo noi in radio. Beh, è un regalo meraviglioso, facciamocelo. Ecco, un altro regalo, proprio last minute, che si può fare, sono i codici per acquistare album su iTunes, così, per esempio. Te ne lavi proprio le mani, neanche ma la sai quante volte ho regalato CD e vinili ad amici che non se li meritavano e che mi hanno pure guardato male, perché ho regalato, che ne so, dei masterpiece del jazz. Sai quante volte ho regalato nella mia vita Kind of Blue di Miles Davis? Beh, se non conosci perfettamente i gusti musicali della persona, sai magari... quante ragazze ho lasciato per il fatto che non hanno apprezzato Kind of Blue di Miles Davis? Beh, questo è un motivo serio per è un motivo lasciare... serio per litigare, assolutamente. No? Anche, sono capisci d'accordo. Con chi hai a che fare. Sono pienamente d'accordo. Quello è un bel regalo. Immortale Kind of Blue di Miles Davis. Beh, quello è un regalo per tutte le stagioni. Non sbaglio, ormai da anni è anche il regalo di Natale per mia figlia. Almeno però... a lei l'hai comprato il regalo. Dai. No, non l'ho comprato. No, non l'ho comprato. Non faccio più regali a mia figlia, perché con i figli, quando raggiungono una certa età, c'è un solo regalo possibile: una bella busta bianca con la scritta "Tanti auguri, figlia mia". e dentro i soldi, quello che puoi. Così il regalo se lo fanno da soli e imparano anche a gestire quei soldini. Bello. Cioè chi li conserva li mette insieme per poi comprarsi la macchina, la grande, magari, e altri invece che li spendono subito perché c'è questa cosa compulsiva dell'acquisto. Io quando i miei nonni mi regalavano i soldi a Natale li spendevo tutti al negozio di dischi. Tutti quasi, cioè proprio il giorno dopo andavo, quando appena riapriva il 27, il 28. Io ho fatto la stessa cosa, tant'è vero che guarda qui che cosa siamo immersi, in mezzo alla discografia e in mezzo agli strumenti. Ci vorrebbe un compressore. Se spendo soldi li spendo per musica, strumenti, tecnologia e dischi e poi pago mutuo e bollette. Allora, visto che abbiamo proposto 3070 che si rifanno al sound di Hiatus Kei Iote, super band australiana ormai in auge da tempo in giro per il mondo, direi di ascoltare anche l'ultima pubblicazione per la vocalist di Hiatus Kei Iote, la bravissima Napalm in solo con questo album prodotto da poco intitolato Crossfire. Il brano è So Into You al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eh sì, questo è un bell'album, lo potete regalare, fate come me, comprate i codici per iTunes, li spedite e fate un bel regalo. Si intitola Thanks for Listening, il nuovo album meraviglioso del mandolinista americano Chris Steele, Elephant in the Room, un vero capolavoro. Sì, ma sai che io ho smesso di andare al negozio di dischi per regalare i dischi, anche perché la maggior parte delle volte non li riesco a trovare nei grandi negozi di dischi, i dischi che vorrei regalare. È vero. Ad esempio questo non sarà facilissimo da trovare. Bene, però in Italia c'è una buona distribuzione, nel mondo ha una buona distribuzione che è la Warner, quindi nei negozi dischi specializzati sicuramente sì, si trova sì. Anche perché Chris Steele appartiene a un'etichetta importante come la Nonesuch. Siamo ai saluti, non vi faccio gli auguri, non vi facciamo gli auguri, ce li facciamo domani, perché domani saremo di nuovo qui nel Groovemaster Studio per il soundcheck a partire dalle 19:15, quindi vigilia di Natale, e ci potremo fare gli auguri o no. Portiamo magari anche qualcosa da mangiare, da spizzicare prima. Allora, visto Francesco e Riccardo che abbiamo parlato dei brani rappresentativi di questa prima fase della stagione del nostro soundcheck, direi di chiudere con un album al quale tutti noi siamo affezionati, primo in classifica nella sezione jazz di iTunes per settimane, album che sarà pubblicato sul mercato internazionale, ve lo anticipo, a partire dal prossimo gennaio. A fine gennaio ci sarà la pubblicazione internazionale per quel meraviglioso musicista che è il nostro amico Dario De Ida, al quale auguriamo consensi in tutto il mondo, il grande successo che merita un artista e un professionista del suo livello. Album pubblicato in Italia da Groovemaster Edition, si intitola My Favorite Strings. Dario De Ida chiude il soundcheck di oggi con Airmail Special, quel vecchio successo meraviglioso super swing scritto da Charlie Christian e Benny Goodman. A tutti voi buona serata, ci risentiamo domani. Grazie Francesco, grazie Riccardo.